6 su 8 Hz. Ovviamente su Radio Wombat. Vorrei parlare poco questa puntata, un po' come segnare un passaggio a qualcosa che sarà anche diverso, spero, su 8 Hz. Le scorse puntate ho parlato tanto, ho fatto anche un po' di storia di quello che mettevo. Adesso preferirei mettere un po' a ruota libera cose che mi vengono in mente, che mi sono venute in mente anche in questi giorni. Appunto dando un po' un senso maggiore al titolo della trasmissione, che sono delle frequenze, volendo anche magiche, volendo collegate a Tesla, all'energia, all'esoterismo, insomma a tante cose, e anche uno stato di dormiveglia particolare dell'essere umano, dove il cervello ne fa tante. Così spero che facciate voi durante l'ascolto delle mie puntate. Vabbè, metterò il titolo di questa puntata, l'ho voluta chiamare Disease Entertainment. In realtà non è molto intrattenimento quello che metterò, ma proprio mi piaceva anche il gioco di parole sulla puntata, visto che sarà abbastanza pesante, speriamo, e vorrei che lo fossero anche le prossime. E quindi per partire metterei subito un pezzo, un'introduzione, l'apertura di un live dei Correction House, che sono un super gruppo degli ultimi anni, formato da Mike Williams, il cantante degli Eight God, Sanford Park dei Misk, Scott Kelly dei Neurosis e Bruce Lamont degli Yakuza. E il pezzo è tratto proprio dal lato A del doppio vinile, mi pare, di Writing History in Advance, che è proprio un live ufficiale loro. E si inizia così con l'industrial, continueremo in sonorità scure, elettroniche, ambientali, di drone, insomma, ascoltate. Intanto passate Be done with that.

disco fissi, era un bellissimo live del 98. Ora Alec Empire insieme a Merzbow. Alec Empire abbiamo già messo qualche puntata fa, era un DJ, fa musica solista, fa musica insieme alle Carichine Giraio, che è molto conosciuto per quello. Fece questo live appunto, dove iniziava come DJ set e finiva che veniva annunciato Merzbow, che è un signor giapponese che è appunto un po' l'icona del Japanese noise, attivo dal 79, ha fatto circa 300 dischi, forse anche quasi 400, e questo disco si chiama Live at CBGB a New York del 98. Adesso mettiamo un bel pezzo. Merzbow è anche importante perché era uno dei seguaci della Mail Art, che era appunto una sorta di corrispondenza artistica postale quando ancora non c'era internet, e quando tutto era più umano, e quindi c'era una rete di personaggi che potevano andare dal Giappone all'Inghilterra, all'Italia, all'America, e tutti si scambiavano via pacchettino email, scusi, senza email, via posta proprio i loro deliri, i loro scritti, le loro foto, le loro composizioni artistiche, messaggi, un po' di tutto. Tra questi c'era anche Merzbow, oltre a Coil, Trobbingristol, insomma, tanta gente, ebbene lo sa, un giornalista anche italiano che si chiama Vittore Baroni, che anche lui era in mezzo al giro della Mail Art. Magari ho sbagliato a definirlo giornalista perché è un pezzo molto importante e fondamentale nell'importare da fuori qualcosa di speciale in Italia. Non poteva mancare, dopo queste sonorità bestialmente cattive e metalliche, un pezzo che secondo me è fondamentale, parlando proprio di metallo e rumori, di un gruppo famosissimo, ma lo dico io, ma credo che insomma sia arrivato alla portata di tante persone, che sono gli Einsturzende Neubauten, gruppo tedesco, appunto fondamentale per l'industrial o comunque per lo sperimentalismo rumoroso. Il pezzo è Collapse, tratto da Collapse, che è un vero e proprio sermone metallico e lento di depressione, anche di crollo nervoso. Adesso ve l'ascoltate. Potevano mancare appunto i Cabaret Voltaire, che era un gruppo attivissimo dagli anni 80, firmarono per l'Old Trade, poi dopo si sono andati al commercio, ma questo pezzo secondo me è molto bello e dà il titolo proprio alla puntata, che si chiama This Is Entertainment, è abbastanza fuori di testa. Thank you. Qua appunto è una serata di puro e solo intrattenimento divertentissimo, però magari a qualcuno piace, non so, si libera da tutto questo Sanremo, da tutto questo schifo musicale che ci attanaglia ogni giorno anche nei social. E parlando di social, ricordiamo i nostri social per non dimenticare mai il nostro sito, ma quello lo conoscete perché ci state ascoltando, ma magari in podcast non lo sapete, è wombat.noblogs.org. Il Twitter con le twittate delle cose giornaliere, che è twitter.com/radiowombatfi, wombat sempre con la W. Il Facebook è facebook.com/radio-wombat-firenze. La mail, che è la cosa più importante della vita, si chiama postawombat@inseberia.net. E lì ci potete scrivere, ma volendo anche sul Facebook, dai, le vostre impressioni sulla nostra radio, sui nostri programmi, che sono tanti. Oggi non ve li ricordo, ma se guardate il sito, il palinsesto, trovate tutto e anche le descrizioni di ogni singolo programma. Ci sono, per quanto riguarda 8 Hertz, sono arrivate cose che visto un po' la tendenza, hanno chiesto di parlare di Zio Al, dei Ministri, hanno chiesto ulteriori informazioni sui Coil, hanno chiesto anche sulla Pausini qualcosa. Vabbè, faremo anche quella distorta, tutta distorta dall'inizio alla fine, lo faremo e basta. Abbiamo ascoltato gli ultimi due pezzi, che erano roba passata degli anni 80. Adesso iniziamo a mettere qualcosa di più odierno, che fa sempre bene, conoscere le cose di oggi. E quindi Orfsk, ORPHX, Vita Meditativa, tratto dall'album Vita Meditativa, sono un progetto canadese della Ants Records, anzi Ants Production, che è un'etichetta Rhythmic Noise, però loro sono un pochino più flashati verso il tribalismo o verso qualcosa di un po' più trance, ecco. Direi Il pezzo è clumsy, very molto bello, tedious, secondo and me. yet there's something very fragile about this E sort of ve lo faccio bourgeois world. ascoltare, Would you agree? e voi stateci dentro, mi raccomando, cioè. Sei su 8 Hz e questa è Radio Wombat. questa progressione incalzante a tappeto, questo viaggio degli Orfs, un altro viaggione di un gruppo italiano molto importante torinese che si chiamano Larsen, e non avevo ancora messo nelle precedenti puntate. Il pezzo è tratto da un disco forse il più famoso loro, che è uscito appunto per la Young Gods Records di Michael Gia degli Swans. Il pezzo si chiama Radial, appunto l'album si chiama River, che è Rever, scusate, del 2002. Il progetto tra i fautori, tra i membri, c'è cioè Fabrizio Modonese Palumbo, che è un po' un diamante della musica sperimentale italiana, fa tante cose soliste, un progetto suo si chiama R, scritto R minuscola tra parentesi per chi lo vuole cercare, poi altre cose con gli Almgeist, con Blind Date Salamander, ha collaborato con Little Lenny, con Xiu Xiu, dal vivo con Art Suite Wound, per cui insomma è veramente parecchio importante. Il pezzo secondo me è bellissimo, ne riparleremo magari in futuro. Intanto ascoltatevi Re Dial. Il giorno dopo. Ricordiamo che per questo fine settimana le notizie pervenute sono sabato 18 febbraio K100, una serata OI con bomber 80 e qui Andrea Democrito Bertelli ci si spara non so cosa, più Cosa Nostra, più Riot Clan, più il Moga and the Barber DJ set. E all'Emerson alle 22 invece c'è la milonga di carnevale a cura di del Tango Sognato, Benesit Presidio No Inc. Domenica vi ricordo invece che, scusate, lunedì questo invece vi ricordo che c'è una bellissima serata con Van Vissen, proprio lui, quello che ha curato le colonne sonore di Jim Jarmusch, insieme a quei farabutteri e dei Gargamella che fanno folk sperimentale. Vi consiglio di ascoltare entrambi i progetti, ma intanto è partito un progetto greco di drone ambientale e elettroacustico che si chiamano Mohammad e questo pezzo si chiama Sacrifice, tratto da un disco che si chiama Son Sacrifice. Conosco poco o niente, ma è una bomba e quindi non vi perdono se mollate proprio ora. Abbiamo ascoltato Muhammad con Sacrifice. Il prossimo pezzo è direttamente live da un live non meglio definito, che comunque è di Passed, che è un giovane no, no, artista, insomma, è un giovane. Fa suoni di ambiente e percussioni giovanissimo e dell'area toscana. Il disco che ha fatto si chiama Illuminant Glory per la Boring Machine. Qui metto un live proprio suo, un pezzo di live che ha fatto. Secondo me è molto molto interessante. Un live in corsivo a Call Activities Volume 3, l'ho sentito sulla rete, ma l'ho visto anche dal vivo e ho sentito anche il disco che è molto valido, ci stava con la serata, con la puntata. E quindi sentitevi questo lungo brano che monta, sempre elettroacustico, come abbiamo sentito prima. Infatti Muhammad hanno violoncelli o contrabbassi, non so bene perché non ho mai potuto vederli dal vivo, però insomma suoni acustici poi rimandati, processati per dare una sorta di realismo in più all'ambient sempre un po' troppo sintetico. E ascoltate intanto Passed. Thank you. parlare ora di un grandissimo artista fondamentale per le percussioni, per lo sciamanesimo ritmico, che è Zev. Poi ha abitato a San Francisco già dal 1979, ha fatto veramente tantissimi lavori, soprattutto all'inizio in cassetta, ha rischiato di suonare con Frank Zappa. Conosciuto di persona, è splendido, è un vampiro splendido, lo saluto tanto. Il pezzo che metto in questione è in realtà un po' insolito, perché nel 2009 fece uscire un disco per la Cold Spring, che è un'etichetta fondamentalmente dark ambient, e appunto le sonorità sono ambient, però che partono tutte da suoni di percussione riverberatissimo, processate all'inverosimile. Mi ricordo che la prima volta che l'ho sentito mi hanno spaccato le casse, quindi mi auguro che le spacchino anche a voi che ci state ascoltando. Ci avviamo anche un po' verso la fine, per cui intanto lo metto. Il pezzo è il primo in scaletta nel disco, che si chiama Somethings, del 2009 appunto, edito da Cold Spring, e lui è Zev. Ascoltatelo non con cautela, ma ben disposti, perché è un ambient veramente significativo, secondo me. A dopo per l'ultimo pezzo, anzi ve lo posso presentare anche ora, è di Monte Cazzazza, che si chiama Sex is Not Emergency, dell'86. Monte Cazzazza era uno quello che ha definito un po' l'industrial scenicamente, per cui la famosa frase industrial music for industrial people è sua. Ne riparleremo più in là magari. Intanto ascoltatevi Zev. Forse giovedì prossimo, magari con una puntata ancora più folle. 8 Hz, Radio Wombat. C'è anche il contest per il logo. Fatelo, perché rischiate di vedere i vostri disegni nelle magliette, negli adesivi, che, come dice un ragazzo che conosco, sono una delle tre cose più importanti della vita, gli adesivi. Thank you.